La strage è stata organizzata nel 1979 dai vertici della loggia massonica P2. In quell'operazione hanno messo a punto anche tutta una serie di pistaggi che si sono sviluppati preventivamente e posticipatamente nel momento in cui sono iniziate le indagini. Poi nel giugno del 1980, quando il giudice Amato stava scoprendo i vertici di tutta questa operazione che stava insanguinando Roma con tutta una serie di attentati e cose varie, stava scoprendo il livello superiore, allora il giudice Amato è stato ucciso. Poi, quando alla fine di giugno si è cominciato a sapere, da voci delle carceri, eccetera, che all'inizio di agosto ci sarebbe stato un attentato, un evento talmente grande che ne avrebbero parlato i giornali di tutto il mondo, i servizi segreti italiani, anziché cercare di bloccare la strage, hanno fatto in modo che nessuno venisse ostacolato dalla strage. E quando a un certo punto è successa la strage, Spiazzi, con l'intervista all'Espresso, indica il punto debole che sa tutto della strage e potrebbe essere pericoloso, e viene ucciso Mangiameli. Questo è tutto il discorso della strage. Perciò pista palestinese, tutte quelle robe varie lì, fanno parte di un'operazione che non ha niente a che fare con la verità dei fatti. La direttiva Renzi prevedeva il deposito di tutti gli atti relativi alla strage, a tutte le stragi che sono avvenute in Italia. Tutti gli atti relativi, allora tutti gli atti vogliono dire tutti gli atti, non questo sì, questo no, questo forse. Nel momento in cui hanno cominciato a versare, abbiamo cominciato a reclamare perché le cose non erano assolutamente adeguate. E abbiamo richiesto un tavolo per poter discutere di queste cose, ci hanno concesso il tavolo. Alle nostre richieste dei curriculum vitae dei vari terroristi c'è stato negato, dicendo che la direttiva era fatta per eventi e non per nomi. Diciamo, guardate che i nomi hanno fatto gli eventi, pertanto io credo che tutto quanto sia unito. Niente da fare, non ci hanno dato i nomi nel modo più assoluto. L'anno scorso, perciò stiamo parlando del 2019, dopo insistenti richieste ancora da parte di tutto il tavolo presente, addirittura una persona dei servizi, Vecchione, dichiara: i servizi hanno già versato tutto quello che era predisposto. Dopo la direttiva Renzi è stata fatta un comitato ad altissimo livello in cui non partecipavano né associazioni né membri dei familiari, nessuno, e lì abbiamo deciso cosa versare e cosa non versare. Sulla base di queste decisioni noi abbiamo già versato tutto. Se cambiano quelle decisioni, quelle direttive, allora noi verseremo dall'altra roba, punto. Ciò vuol dire che ci hanno preso in giro dall'inizio alla fine. Tenete conto che noi abbiamo apprezzato moltissimo il momento in cui è uscita la direttiva, però indubbiamente quelle cose che sono uscite sono un'offesa all'intelligenza, anche perché con quei documenti che hanno versato, con la strage di Bologna non avremmo neanche iniziato il primo grado del processo. Che hanno versato cartaccia, rassegna stampa, e non hanno versato le cose importanti per far andare avanti le indagini. Dico sempre che con quello che hanno versato non si sarebbe nemmeno iniziato il primo grado di giudizio per Bologna. Cioè, adesso stiamo discutendo per arrivare ai mandanti e c'è un processo che va in quella direzione, noi non saremmo neanche arrivati al primo grado, quello che in un qualche modo è finito nel 95 con la condanna, non l'avremmo fatto se dovevamo basarci su quella roba lì. Qui a questo punto si va verso i mandanti e credo che questo sia un fatto estremamente importante. È importante, però ci deve far riflettere, perché chi è accusato di depistaggio, due persone, e chi è accusato di false dichiarazioni lo è proprio sulla base di false testimonianze e depistaggio fatto nel 2019. Pertanto la cosa deve far riflettere anche da questo punto di vista. Quest'anno la manifestazione causa Covid avrà uno sviluppo particolare. Un peccato, perché il 40° anniversario poteva avere uno sviluppo molto, diciamo così, molto meglio articolato, ma molto probabilmente, se non vengono altre problematiche di direttive varie, ci sarà un'operazione di questo tipo. Nelle cortile d'onore del comune si terranno quelle riunioni, in una volta sola naturalmente, che si tenevano prima in Sala Rossa e in Consiglio Comunale, e nel cortile d'onore faremo quei discorsi e faremo parlare anche l'eventuale ministro che dovesse essere presente tra noi. Poi ci spostiamo in Piazza Maggiore, dove c'è tutto quel posto predisposto per il cinema, adesso il cinema in piazza, in quel momento sarà predisposto proprio per il concerto che si farà la sera del 2, e lì si faranno quei discorsi che solitamente venivano fatti in Piazza Medaglia d'Oro. Non ci sarà il corteo proprio perché sarebbe un assembramento poco gestibile e molto pericoloso dal punto di vista dei contagi. Poi in pullman i familiari si sposteranno e andranno in stazione a depositare le corone. Questo corteo di autobus sarà preceduto dal 37 che andrà in stazione con gli altri bus, proprio che serviranno per portare i parenti delle vittime. Il minuto di silenzio è una cosa da decidere, perché se non ci sono controindicazioni dal punto di vista sempre dei contagi, per intendersi, molto probabilmente si riuscirà a fare che i pullman vanno in stazione e in stazione si fa il minuto di silenzio, altrimenti il minuto di silenzio si fa in Piazza Maggiore.